e dentro un abito di seta nero, elegantissima sei qui con me. Saluti e non mi degni di uno sguardo, dallo specchietto ti ritocchi un po', i miei sensi di colpa sono pugni nello stomaco. Quando ripenso che al tuo cuore ho già lasciato un livido, vorresti dirmi che è finita, mi gioco la vita. Ti amavo, ti odiavo, ti amavo. Accetta questa rosa prima di andare via, racchiude il nostro amore, passione e gelosia. Le spine sono le notti che passavi ad aspettare, i petali nascondono la rabbia che hai nel cuore. Accetta questa rosa, che rosa vuoi che sia, in cambio di un amore che stai buttando via. Nascondi la passita tra le pagine di un libro che non leggerai mai più. Ti amavo, ti odiavo, ti amavo, e poi mi innamoravo. Ti amavo, ti odiavo, ci posso ancora credere, se accetti rose e lacrime. Vorrei tornare indietro al primo incontro, ripresentarmi come mi vuoi tu. E questo diavolo sarebbe un santo, ma forse ai santi non ci credi più. Hai già bevuto da un bicchiere troppo vino e lacrime, hai già brindato troppe volte alla tua solitudine. Vorresti dirmi che è finita, mi gioco la vita. Ti amavo, ti odiavo, ti amavo. Accetta questa rosa prima di andare via, racchiude il nostro amore, passione e gelosia. Le spine sono le notti che passavi ad aspettare, i petali nascondono la rabbia che hai nel cuore. Accetta questa rosa, che rosa vuoi che sia, in cambio di un amore che stai buttando via. Nascondi la passita tra le pagine di un libro che non leggerai mai più. Ti amavo, ti odiavo, ti amavo, e poi mi innamoravo. Ti amavo, ti odiavo, ci posso ancora credere, se accetti rose e lacrime. Accetta questa rosa, che rosa vuoi che sia, in cambio di un amore che stai buttando via. Nascondi la passita tra le pagine di un libro che non leggerai mai più. Ti amavo, ti odiavo, ti amavo, e poi mi innamoravo. Ti amavo, ti odiavo. Ti amavo, ti odiavo, ti amavo, e poi mi innamoravo. Ti amavo, ti odiavo, ci posso ancora credere, se accetti rose e lacrime.